Amici amiche carissimi, bentornati per una nuova puntata di Leonardo Risponde. Una santa serata Ave Maria a tutti. Cominciamo subito con le risposte alle domande, che già ne ho vista qualcuna, per cui procediamo subito dalla prima, partendo dalla prima. Titti Bruni chiede: carissimo Don Leonardo, a volte penso che la croce sia l'unico modo per essere uniti al Signore, per metterlo al primo posto. Possibile? E la gioia che posto ha? Grazie Padre. Ma diciamo che la croce bisogna correggere un pochino, diciamo, la formulazione di questa frase. La croce, il discorso sulla croce è un discorso che va ben circostanziato. Premesso che se tutte quante le cose fossero andate come Dio voleva che andassero, noi la croce non avremmo neanche saputo che cosa sia. D'accordo? Perché Dio non ha creato né la morte, non gode per la rovina dei viventi, né tantomeno gode o ha piacere che noi soffriamo in nessuna forma possibile, nemmeno di quelle stesse sofferenze che sono sua divina volontà e conseguenza del nostro peccato originale, come per esempio il lavoro. Ecco. Quindi, per quanto dipende da Dio la sofferenza, noi non avremmo dovuto neanche sapere che cosa significa. Purtroppo l'umana volontà, con il peccato, ha fatto entrare il male nel mondo, e quello che ci ha rivelato Dio attraverso nostro Signore Gesù Cristo è che il rimedio del male è la croce. Quindi la croce è un male, nel senso che è una cosa che ci fa soffrire, quindi è un male fisico, come si dice in termini tecnici, che però è volto alla distruzione del sommo male, che è il male morale, che è il peccato. Quindi senza la croce non si toglie il peccato del mondo, non si riparano le conseguenze del peccato, non ci si libera da tante brutte abitudini, vizi e cose di questo genere. Ecco perché Dio vuole in questo senso la croce, ed ecco perché Gesù è stato categorico nel Vangelo: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Detto questo, quindi, di per sé la croce, certamente la croce in questa economia, quindi nel mondo così come è diventato oggi, segnato dal peccato, è uno strumento assolutamente privilegiato per ritrovare l'unione perduta con Dio. Ecco, però non si deve e non si può pensare alla croce in termini, come dire, solo ed esclusivamente negativi, quindi solo in termini di sofferenza e di dolore. Perché la croce salva quando è accolta e abbracciata con amore, o quantomeno con un minimo di rassegnazione, insomma. Quindi non è il dolore che ci salva, ma è il dolore accolto e vissuto appunto con amore, avendolo illuminato, e quindi essendo addirittura capaci, per quelli che sono più bravi, di lodare, di ringraziare e benedire Dio nella croce e per la croce, non nonostante la croce. Quindi questo perché? Perché la gioia rappresenta, sotto questo punto di vista, cioè noi siamo uniti, quando siamo uniti con Dio, sperimentiamo già in questo mondo la gioia vera e l'anticipo della felicità. Quindi nella domanda che ha fatto Titti Bruni sembra che la croce sia sofferenza e morte, invece la gioia sarebbe un'altra forma distinta. Non è proprio così, ecco, perché la croce illuminata è gioia, d'accordo? E quindi anche la croce non è dolore barbaro, diciamo così, è dolore cieco, dolore crudo. E tutte quante le cose poi che il Signore ci dona in grazia spirituale o cose belle della vita, certamente, se nella misura in cui si impara ad accoglierle e a recepirle come doni e atti del suo amore e della sua divina volontà, certamente anche quelli divengono fonti privilegiate dell'unione con Dio. Chi conosce un pochino la divina volontà sa che la divina volontà completa un po', diciamo così, l'orizzonte ascetico classico, tradizionale, no? Dove grande importanza avevano ed hanno tuttora le virtù, il combattimento contro il peccato, contro i vizi, quindi la mortificazione e la penitenza. Ma in questo orizzonte l'accoglienza e la scoperta di tutte le fonti immense, tuttora aperte di gioia e di esperienza viva dell'amore di Dio, non solo che sono da dover prendere, ma è cosa assolutamente lodevole, quindi c'è un benessere di vita che certamente contribuisce anche questo a vivere meglio le inevitabili croci che sempre come atti di amore il nostro Signore ci manda, ma per il nostro bene e per la nostra salvezza. Giamma Laurenti scrive: un tema di rado posto all'attenzione dei fedeli dai sacerdoti del raccoglimento prima della Santa Messa e del silenzio della preghiera subito dopo. Posso provare a sensibilizzare il mio ottimo parroco? Allora, questi temi certamente è importante viverli e scoprirli. Quindi la prima cosa da fare, mano a mano che se ne interiorizza l'importanza, è cominciare a viverli. I poveri parroci, purtroppo, pur essendo consapevoli della loro importanza, io lo capisco, non sempre trovano la possibilità, per tante cose, di poter fare un adeguato tempo di preparazione e un adeguato tempo di ringraziamento. Non voglio, insomma, come dire, sembrare che questa non sia una cosa importante. Comprendo però che a volte non subito si riesce a, come dire, organizzare bene il tempo per fare in modo che alcuni momenti, e questi sono importanti, siano blindati. Però io da parroco posso assicurare che la vita, insomma, non tanto in una piccola parrocchia come quella qui uno sto, ma se oggi stesse uno con 30.000 abitanti, non accade di rado, insomma, o con certe situazioni sono 2, 3, 4 parrocchie, cioè, come dire, in queste condizioni può diventare, come dire, difficile, no? Vede Giamma Laurenti, sensibilizzare un parroco su questa cosa è un'operazione che si potrebbe in teoria anche fare, però occorre avere molta cautela e attenzione, no? Perché ogni sacerdote più o meno sa questa cosa, quindi se poi non so se lei ne vuole essere certo, insomma, di questa cosa qui, perché può darsi che un sacerdote faccia la preparazione alla Santa Messa in camera sua, quindi che non lo faccia, diciamo così, pubblicamente in chiesa, no? O anche dopo il ringraziamento, magari per non essere disturbato, se ne sale in camera sua e fa il ringraziamento. Questo, in certi contesti ci può stare anche questo, no? Quindi ci vuole in ogni caso una straordinaria delicatezza, non si può andare a fare un rimprovero diretto, insomma, a un parroco su questa materia, perché credo che, a meno che non c'è davanti proprio un santo, come dire, da canonizzazione immediata, cioè ne risulterebbe urtato, d'accordo? Perché, insomma, è una cosa, insomma, che se uno è capace di fare un discorso molto prendendolo per la larga, quindi parlando molto in termini generali sulla bellezza del silenzio prima della messa, del ringraziamento dopo, ma senza dire tu non lo fai, cerca di farlo, quindi, che ripeto, bisogna proprio, tra l'altro, avere anche le prove oggettive, e in ogni caso, insomma, andare a fare un rimprovero diretto su questa cosa, capito? Cioè, io non so se un parroco se lo prenderebbe nemmeno dal vescovo, insomma, no? Quindi non lo so se lo prende da un fedele laico. Bisogna sempre fare molta attenzione. Io invito sempre a non giudicare, perché, ripeto, ci possono essere sorprese, quindi magari quel sacerdote non ha modo, magari deve stare in confessionale, magari non so che, e magari si prepara un'ora prima, cioè ha delle sue forme particolari, quindi è sempre un pochino complicato. Se lei ha coperto l'importanza di questa cosa, faccia in modo innanzitutto di farlo lei, 10 minuti, un quarto d'ora di preparazione alla messa e poi un tempo di ringraziamento, no? Quindi ecco, spero di essermi spiegato, insomma. Quindi anche nel fare il bene, nel perseguire il bene, dobbiamo fare sempre attenzione che a usare mezzi, forme e modalità opportune, insomma, perché a volte io ho imparato una cosa nella mia esperienza di sacerdote, questo è un pochino liberante anche per noi stessi, anche per me. Io una volta pensavo di dover quasi come dire, forzare le persone a diventare sante, d'accordo? Perché cioè, era come se mi sentissi io, come dire, responsabile, e forse per una, come dire, eccessiva interiorizzazione, diciamo così, del ruolo del sacerdote come strumento per la santificazione altrui, della santità altrui. Questo è un po' troppo, d'accordo? Perché se uno entra in questa dinamica, poi che succede? Che se ti trovi davanti le persone che sante non sono, come dire, gli tiri il collo. Questo non va bene, questo qui. Nel senso che ciò che tutti noi dobbiamo fare, un sacerdote più degli altri, è favorire, come dire, un certo processo crescita, di acquisizione, di elementi che in coscienza poi ti portino a maturare e ti portino a te a fare delle scelte fatte in un certo modo, no? Ecco, perché Dio stesso rispetta la nostra libertà in maniera, come dire, tassativa, e quindi nessuno di noi è più grande dell'Altissimo, e quindi certamente deve trovare sempre dei modi di porsi e di proporsi che al tempo stesso siano stimolanti, anche molto stimolanti, a volte anche anche molto, come dire, super stimolanti, però senza esagerare, quindi senza, come dire, andare a fare una sorta di quasi aggressione, no? Che la persona, insomma, poi anziché convertirsi si irrigidisce, si chiude ancora di più. Ecco, queste sono cose che ho maturato lentamente, insomma, nel corso del tempo, no? Quindi tutti siamo presi dal desiderio, noi vorremmo che tutti quanti fossero amici di Gesù, che fossero santi, pensiamo anche a tante mogli che i mariti non li seguono in chiesa, oppure genitori che i figli sono un pochino allontanati, no? E stanno angosciati, tutto comprensibile. Ecco, però il problema è che dinanzi a queste cose le vie che noi possiamo percorrere e che dobbiamo percorrere sono vie che però devono essere propositive, quindi che aiutano, che offrano stimoli nel rispetto però della libertà delle scelte che fanno le altre persone, che sono le loro, d'accordo? Né noi dobbiamo sentirci responsabili, né possiamo scavalcare, come dire, la necessità che ognuno faccia le proprie libere scelte. Quindi un parroco ancora di più. Ecco, scusatemi se mi sono dilungato su questo. Iurlei GM scrive: Don Leonardo, buonasera, le penitenze che danno dopo la confessione si possono cambiare? Ma di proprio arbitrio sicuramente no, perché se l'imposizione della penitenza è un atto, come dire, che dipende dall'autoritas del ministro di Dio, e quindi una volta che è accettato dal penitente ed è accettato tacitamente, perché se viene imposta una penitenza che la si ritiene troppo gravosa o che non si può eseguire, il penitente subito deve dire: scusi padre, tu mi hai detto di un rosario, io il rosario non l'ho mai detto in vita mia, non so se ce la faccio. Quindi se mi conferma sta penitenza, poi se non ce la faccio mi fa un peccato grave, insomma, quindi se può darmi un'altra cosa la ringrazierei. Quindi se c'è una penitenza eccessivamente gravosa è necessario dirlo in sede sacramentale. Adesso qui io non ci vorrebbe il mio amico Don Pierpaolo, che non è qui in camera con me, e credo, ma non ci mettete la mano sul fuoco, che facendo un'altra confessione si potrebbe, come dire, avere una commutazione di penitenza da altro confessore. Non sono tanto sicuro, sicuramente se uno andasse dal penitenziere senza nessun problema. Credo che i parroci abbiano anche la possibilità di fare questa cosa, sicuramente lo stesso sacerdote potrebbe fare la stessa cosa. Ripeto, qui però entra in ballo anche la normativa canonica, su cui io, mi dispiace, ma come dire, non sono tanto, tanto esperto, quindi credo di sì, sicuramente mai di libero arbitrio fatte da un, come dire, dal penitente stesso, questo è sicuro, questo qui. Ecco, un altro sacerdote credo che potrebbe farlo avendone la potestà canonica, quindi credo che un parroco che ha potestà canonica sui suoi sudditi, che così si chiamano tecnicamente, possa fare una cosa di questo genere. Però prendete queste cose quando si entra in domande tecniche, cioè molto molto tecniche, perché qui ricordate sempre che io sono specializzato in teologia dogmatica, quindi ogni tanto lo dico, non in diritto canonico, non in liturgia, neanche in sacra scrittura, non in teologia morale, quando sono state fatte le domande sulle donazioni degli organi, tutte queste cose qui. È chiaro che un sacerdote più o meno c'ha un'infarinata. Io diritto canonico l'ho studiato nel primo ciclo, ho studiato liturgia, ho studiato morale, ma non, capito, un conto essere specializzati, che hanno approfondito bene una disciplina, e quindi diciamo in linea di massima, salvo i limiti propri della natura umana e le defaillance della memoria, sa quello che dice, no? Però i tuttologi non esistono neanche in campo ecclesiastico, bisogna sempre avere la consapevolezza, insomma, dei limiti e delle approvazioni. Io non mi vergogno, insomma, di dire questa cosa qui, perché capite, cioè, se uno va dal medico della mutua, il medico della mutua, insomma, ha una sua competenza, ma se c'è un tumore devi andare all'oncologo, l'oncologo lo fa l'oncologo, l'ortopedico non è capace a fare l'oncologo, d'accordo? Certo che sa cos'è un tumore, d'accordo? E te lo sarà pure forse anche diagnosticare, come sa fare un medico di base, ma non fa l'oncologo, quindi poi non è in grado, insomma, di intervenire adeguatamente, no? Quindi così capiamo anche un po' le dinamiche, ecco. Io più tempo passa, più ho un po' paura dei tuttologi, cioè di quelli che parlano alla grande di tutto e di tutti, insomma. Penso che ci voglia sempre un po' di senso del proprio limite, insomma, no? Quindi uno cerca, per carità, di dare il massimo aiuto possibile, ma certamente nei limiti delle proprie possibilità e competenze. Vincenzo Trafi scrive: Don Leonardo, sa come si è pronunciata la Santa Madre Chiesa circa l'apparizione della Santissima Vergine Maria in San Pietro il 27 marzo nella supplica di Papa Francesco? Vincenzo, io ho seguito tutta quanta quella preghiera e sinceramente non ho visto nessuna Madonna apparire il 27 di marzo a San Pietro, quindi non ho mai sentito questa storia. Non so se gli altri amici sappiano questa, quindi addirittura la Chiesa si pronunci su una cosa di questo genere, insomma, non saprei proprio cosa dirlo, insomma, io non saprei proprio cosa rispondere, ma non mi risulta che ci sia niente di ufficiale dentro la Chiesa Cattolica, ma neanche che si parli di questa cosa dentro la Chiesa Cattolica, insomma. Adesso poi non lo so se c'è qualcuno che ha fatto qualche ripresa o qualche cosa dove magari pensava di vedere dietro qualche, non lo so, nuvola o cose di questo genere, qualcosa di simile, insomma, ma non ne ho idea, mi dispiace, insomma. Giovanni Raul scrive: Ave Maria, è possibile utilizzare i video delle sue meditazioni come orazione mentale o bisogna fare la ben nota procedura in silenzio e da soli? Allora, se è un video di una meditazione, io generalmente durante la meditazione, certamente in forma ristretta, perché altrimenti, cioè, io faccio queste cose, ripeto, le faccio volentieri perché mi è stato chiesto, insomma, da più di qualcuno di mettere in comune i frutti delle meditazioni, soprattutto perché vertono sul libro di cielo, che molti hanno desiderio di meditare, non sempre riescono a farli da soli, non sempre riescono a comprenderli, e allora qualcuno mi chiese questa cosa diverso tempo fa, quel qualcuno poi aumentò e io ho accettato, insomma, di fare questa cosa, ecco, anche se ovviamente durante una meditazione io non riesco certamente a puntare la telecamera su me stesso. Qualcuno si lamenta che durante le dirette si vede l'inquadratura dell'immagine della Madonna, ma insomma, per me, io sto pregando in quel momento lì, no? Quando uno prega, cioè, non è come quando sto parlando con voi adesso in una trasmissione interattiva, quindi non mi piace, insomma, essere ripreso quando sto pregando, né essere guardato quando sto pregando, quindi già poi che non ho fatica. Comunque, in un contesto di meditazione, io faccio la preghiera di preparazione, certamente, no? Quindi chiaro che se uno deve sentire una meditazione può anche, e sarebbe bene che lo facesse, se la sente in diretta comincia 5 minuti prima, se la sente in differita lo fa da solo, e se vuole utilizzare veramente come preghiera, come dovrebbe essere, quel tempo di meditazione, anche perché dopo, terminata la meditazione, faccio un breve silenzio, che evidentemente per chi ascolta, soprattutto in differita, ma può farla anche in diretta, insomma, può anche interrompere, perché dopo faccio una piccola preghierina conclusiva, e si può prolungare. Quindi diciamo che nella meditazione è seguita, diciamo così, la struttura dell'orazione mentale, cioè presenza di Dio, quindi l'atto di unione con la Divina Volontà, poi l'invocazione della sua assistenza e del suo aiuto per la meditazione, un Ave Maria, e poi, insomma, anziché fare il silenzio, essendo comunque una momento, diciamo così, capite, dove faccio un piccolo canto, insomma, in introduttorio che aiuta un pochino a entrare in preghiera. Poi c'è la lettura, la meditazione, poi c'è il silenzio e poi c'è l'orazione conclusiva. Chiaramente io ho sempre avvertito che dal termine della meditazione in poi bene sarebbe una personalizzazione, perché la meditazione poi termina con il dialogo e con la preghiera che sgorga dal cuore di chi ha meditato e che è personale, d'accordo? Quindi è evidente che per chiudere la meditazione come meditazione faccio un breve silenzio e una preghiera alla Madonna conclusiva, più la benedizione essendo un sacerdote, no? È evidente che quel tempo poi chi vuole fare bene l'orazione mentale lo dovrà vivere personalizzandolo, questo è chiaro, no? Allora, Diego 3D86. Buonasera, Don Leonardo, che differenza c'è tra libertà e libero arbitrio? Grazie in anticipo. Questa è una bella domanda, Diego 3D, a cui rispose bene Sant'Agostino. Perché Gesù ha detto nel Vangelo che se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità, attenzione, la verità vi farà liberi. Allora, quindi vuol dire che la libertà, per essere reale, ha bisogno della verità. Il libero arbitrio no. Allora, in linea di massima hanno una caratteristica comune, no? Sia libertà che libero arbitrio, cioè la possibilità di scegliere tra due o più alternative riguardo una certa cosa. Ok? Questo è ciò che è costitutivo proprio del nostro essere umano. Quali sono le alternative? Nel caso del libero arbitrio l'alternativa è una cosa è buona e una cosa è cattiva. Per esempio, sono fidanzato, castità prematrimoniale o rapporti prematrimoniali. Se scelgo castità prematrimoniale ho utilizzato il libero arbitrio bene. Se scelgo rapporti prematrimoniali ho utilizzato il libero arbitrio male. La libertà non è la possibilità di scelta tra una cosa buona e una cosa cattiva, ma tra due cose buone. Quindi la libertà è la possibilità bella di esercitare questa facoltà, cioè ho un'ora disponibile. Che faccio durante quest'ora? Dico un rosario, vado a farmi una passeggiata, ascolto un po' di musica rilassante, vedo un programma bello ed edificante, faccio una telefonata a un amico, vado in chiesa, ho detto sei cose, che certamente non sono tutte e sei allo stesso livello, ma sono tutte e sei cose lecite o buone. Qui si esercita la libertà, d'accordo? È chiaro, no? Quindi la libertà è la scelta tra più beni possibili. Una cosa può essere lecita, una cosa può essere buona, una cosa può essere migliore, una cosa può essere ottima. Il libero arbitrio è tra il bene e il male. Questa è una cosa a cui bisogna fare molta, molta attenzione. Adesso, per esempio, è estate. Abbigliamento in chiesa e fuori della chiesa, ci sono delle norme al di sotto della quale si scende sotto il lecito e poi al di sopra delle quali uno sceglie, d'accordo? Si può andare in chiesa in maniche corte, tanto per fare un esempio molto molto, allora nell'attuale contesto culturale le maniche corte, a differenza di un tempo, non sono considerate mancanza alla modestia e al decoro, cioè alla decenza più che altro, ok? Permane però, come dire, un certo sentore che meglio sarebbe non scoprire le braccia. Quindi che significa? Che se uno va a maniche corte va bene, se si sente, ha interiorizzato questa cosa di fare questo sacrificio un pochino più grande e lo fa per amore di Dio, per un maggior senso di decoro, tanto meglio per lui, d'accordo? Se uno va in canottiera, libero arbitrio, d'accordo, è utilizzato male, perché il canottiera in chiesa non si entra, d'accordo? Ecco, quindi questo è importante, perché noi dobbiamo anche saper discernere il bene dal male, perché il male non deve essere fatto per nessun motivo, e poi illecito. Abbiamo sentito il Vangelo di domenica, no? Dice: il seme che cade nella strada produce 30, sarebbe illecito, 60 sarebbe il buono, 100 sarebbe l'ottimo. Chi vuole diventare santo mette la quarta, mette la quinta, va sul perfettissimo sotto tutti i punti di vista, non si accontenta del lecito, d'accordo? Ecco, però chi si accontenta del lecito va bene, insomma, no? Ok, facciamo un altro esempio ancora. Una famiglia cristiana non usa la contraccezione, non può usarla, ma se vuole regolare le nascite, come dire, distribuire la vita, le nascite della vita in base a considerazioni che comunque la coppia ha la possibilità di fare, utilizzerà i cosiddetti metodi naturali, d'accordo? Se una famiglia sceglie liberamente in coscienza di aprirsi generosamente alla vita e quindi dice al Signore, bene, a meno che insomma non sia una pazzia, nel senso, cioè, se siamo due disoccupati, 10 figli non si possono fare con 2 disoccupati, insomma, a meno che uno non sia, cioè, ecco, d'accordo, perché poi bisogna sempre, come dire, avere quell'equilibrio che faccia discernere, come dire, la fede, come dire, quando poi non diventa incoscienza, anche se insomma questo qui insomma ce ne vuole, ho fatto un esempio volontariamente estremo, no? 2 disoccupati con 10 figli, perché poi insomma le cose spesso sono più semplici di come noi ce le immaginiamo, però queste cose qui devono essere interiorizzate, d'accordo? Nel senso che l'apertura generosa alla vita è una cosa migliore, è una cosa che attiene alla santificazione della famiglia e degli sposi. Dio la ricompenserà, porta con sé tantissime grazie. La soglia sotto la quale non si deve scendere è quella che passa alla contraccezione, come dire, come atto volontario in tutte quante le sue forme. Spero di essere stato chiaro. Possiamo, anche con gli esempi, insomma, penso che possiamo andare avanti. Loris Leone. Buonasera donna, è possibile laurearsi prima e poi intraprendere la strada del sacerdozio? Se sì, la prima laurea che importanza avrebbe? Beh, ci sono tanti laureati, insomma, che intraprendono successivamente la strada del sacerdozio. Cioè, è evidente che sarebbe una cosa sciocca, come dire, laurearsi quando già si ha l'intenzione, finito il liceo, di fare il sacerdote. Cioè, le persone che sono laureate e che poi fanno il sacerdote vuol dire che è una scelta che hanno maturato dopo la laurea o verso il termine del corso di laurea, perché se uno arriva a che ti mancano 1 o 2 esami e vuoi entrare in seminario, qualunque persona saggia ti dirà fai 2 esami e fai la tesi di laurea e poi entri, perché cioè, evidentemente, no? Cioè, tu entri in seminario ma non è che il giorno dopo diventi prete, quindi se esci è da folle, che capito, aver lasciato un corso di laurea dove ti mancano 2 esami, quindi non si fanno queste cose qui, no? Quindi è chiaro che se la persona ha già delle prospettive vocazionali maturate a 18-19 anni sarebbe una cosa senza senso, insomma, che fa l'università prima. Se la vocazione la percepisce verso la fine del corso di laurea o dopo, ne prende l'atto dopo, e la laurea non è che non ci fa niente, la laurea comunque ce l'ha, è un titolo di studio che c'ha, ha contribuito ad aprire il cervello su tante cose, e quindi niente di quello che noi facciamo è inutile, e quindi certamente non bisogna, ripeto, farlo diventare inutile a priori, perché se io a 18 anni sento la vocazione e dico no, prima faccio giurisprudenza e poi entro in seminario, è un discorso che non va bene, insomma, ecco, perché quando noi abbiamo chiaro quello che dobbiamo fare, prima ci mettiamo a farlo e meglio è. Allora, scusate, sto scorrendo. MP Zara, come si concilia la divina volontà con la preghiera di intercessione? Non capisco molto bene questa domanda, cioè la preghiera di intercessione è cosa raccomandata da Gesù stesso, dal Vangelo, dal Nuovo Testamento, per cui la preghiera di intercessione è cosa voluta da Dio. Ci sono alcune grazie che per volontà divina dipendono dal fatto che vengano richieste. La Madonna Fatima disse, fece vedere l'inferno ai pastorelli, c'è tanta gente che va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifichi per loro. Cioè, non solo la preghiera, anche il sacrificio fatto per il bene degli altri, ma questo è disposto dalla divina volontà, quindi Dio vuole che si faccia questo, quindi non riesco a comprendere il senso di questa domanda, né a immaginarmi cosa nel cuore di questo fratello, di questa sorella, di questa figliola, ci possa essere quando pensa a questa cosa, perché è evidente che la preghiera è espressione di divina volontà. Questo forse riguarda la presunta apparizione. C'era una nuvola con una forma un po' particolare. Io non vorrei adesso scandalizzare nessuno, insomma, ma io, insomma, stare alle nuvole, queste cose un po' così, cioè, io ci credo profondamente, amo infinitamente la Madonna e credo profondamente, insomma, a tutto il bene che sta facendo attraverso tante apparizioni riconosciute o in via di riconoscimento, insomma, non voglio dire alcune, insomma, sono abbastanza attendibili anche se ancora non riconosciute, però, insomma, proprio come indole, di il cielo mi perdoni, io mi rimangio tutto se questo è sbagliato, però come mia sensibilità personale non mi sento molto incline, insomma, si vede una cosa, insomma, voi sapete, insomma, che le nuvole è quanto di più evanescente. Se uno fissa qualche cosa, cioè, non è difficile scorgere le forme. Ogni tanto, anche sui marmi, per esempio, no? Sui marmi delle mie chiese, dice: hai visto, c'è la faccia di quello sembra il diavolo, quello sembra quell'altro. Dico: ma dove lo vedi? Cioè, dopo è chiaro che se uno c'è qualcuno che ti, cioè, se tu dai, cioè, vedendo una cosa, ci appiccichi sopra una certa immagine, puoi anche, come dire, però. Non credo che chi ha fatto il marmo volesse fare la rappresentazione simulata del Deo, speriamo, insomma, cioè, tutto è possibile, no? Capite? Però si entra nell'ambito delle possibilità potenzialmente infinite, no? Ecco. Don Leonardo Verendissimo, buonasera, potreste spiegarci brevemente la questione della Confiteor? È vero che uno stesso peccato mortale commesso una terza volta non merita assoluzione? Numero uno, Marco, la questione della confiteor, detta in questi termini, io non so, le confesso candidamente, di cosa stia parlando. Sulla questione del terzo peccato mortale commesso una terza volta, questa è una frase che disse Padre Pio. È evidente che tutte quante queste cose, bisogna cogliere, come dire, la sostanza di questo uso severo che aveva Padre Pio, e anche però il contesto, come dire, storico-religioso in cui lui ha vissuto e ha operato. E attenzione, qui si parla di peccato mortale. Peccato mortale significa che la persona l'ha commesso con piena avvertenza e deliberato consenso, cioè sa bene che è un peccato mortale, quindi non ha dubbi su questo, liberamente e volontariamente sceglie di farlo su materia che sa essere grave, quindi lo sa che sta offendendo gravemente il nostro Signore. Allora, che cosa significa? Siccome Dio, la misericordia di Dio non può mai diventare una sorta di autorizzazione al peccato, San Paolo ha detto che a nessuno è stato dato il permesso di peccare. Io non posso, sta scritto nel libro di Sapienziale, dire Dio è misericordioso così da aggiungere peccato a peccato. Cito proprio testualmente, non mi ricordo se era Siracide o qualche altro libro sapienziale, no? Quindi non bisogna provocare la divina misericordia o abusare della divina misericordia. Per cui, ripeto, quando si tratta di un peccato mortale, quindi percepito come tale dalla persona, anche quindi non soltanto da un punto di vista oggettivo, la recidiva in esso senza alcun miglioramento, senza alcun progresso, senza che il penitente dimostri che almeno ci sta provando, che fugga le occasioni, tutte queste cose, reiterando nel tempo, a prudente giudizio del confessore, può portare non a non assolvere, d'accordo, perché, ma evidentemente in certe situazioni del tutto circostanziate, se è il caso e con tutte le debite attenzioni, come dire, a un differimento dell'assoluzione. Cioè il confessore potrebbe dire al penitente, cioè, guarda, facciamo così, perché tu possa stare più tranquillo anche davanti a Dio, fai 15 giorni di vita buona, se cadi frequentemente in questo peccato, e quindi provati, mettiti alla prova, dimostra al Signore che stai combattendo, dopodiché ricevi la soluzione. Quindi questo si può fare, quindi. Però anche queste qui sono cose che vanno sempre pregate per i confessori, perché oggi come oggi, nel mutato contesto storico-culturale, cioè uno deve anche capire bene chi c'ha davanti, perché oggi la gente non si confessa più, capite? Per cui già che te le vengano a dire certe cose in confessione è un mezzo miracolo. Quindi un conto sono i discorsi, come dire, teorici, cioè uno deve spiegare il concetto, d'accordo? E il concetto certamente è questo, cioè la misericordia di Dio non va provocata e non deve diventare un incentivo paradossalmente al peccato. Cioè questo diventa una beffa, questo diventa un irridere nostro Signore, e Dio non si deve irridere, ecco. Però ecco, oggi bisogna anche, il confessore deve stare molto attento a chi c'è davanti e calibrare ogni intervento, specialmente quelli un pochino severi, con estrema attenzione alla luce delle condizioni soggettive del penitente che si trova davanti. Vi assicuro che non è una cosa semplice, quindi vi prego di pregare per tutti i confessori. Lavori online paganti. Buonasera Don Leonardo, nel credo cosa si intende per la risurrezione della carne? Se l'anima già dopo la morte va in purgatorio, inferno, paradiso, a cosa serve risuscitare i corpi? Figlio mio o figlia mia, cioè noi non siamo anime disincarnate, noi siamo uomini, d'accordo? Gesù Cristo è diventato vero uomo, Gesù Cristo non è apparso come un fantasma, cioè, il mio essere è stato creato per essere immortale, non nell'anima, ma io sono io come la mia integrità e integralità di anima e di corpo. Per cui la morte è una cosa gravissima, perché il corpo che io abito nella terra si troverà in condizione di cadavere, quindi tornerà polvere, quindi cioè, questa non è evidentemente una situazione possibile, ecco. Tra l'altro, perché tra l'altro le cose che Dio crea non si dissolvono nel nulla, e quindi siccome l'uomo è uomo, certo che il principio della salvezza è l'anima, perché il corpo, come dire, ha delle sue norme di funzionamento autonome, no? Ma che sono del tutto, come dire, indifferenti da un punto di vista morale. Cioè il mio cuoricino, se fa il bravo, fa circolare bene il sangue, ma questo lo fa da solo, in ottemperanza delle leggi stabilite da Dio, e non può non farlo. E viceversa, essendo io un essere umano, la mia umana volontà può scegliere se fare il bene o fare il male, come abbiamo spiegato prima al nostro amico, quindi ha il libero arbitrio. Quindi se volgersi verso il bene, e se si volge verso il male pecca, e se si volge verso il male produce il male, e trascina verso il male l'anima e il corpo. Per cui risorgeranno i beati, risorgeranno anche i dannati, d'accordo? Perché il premio e o la retribuzione saranno perfetti, saranno non soltanto una cosa spirituale dell'anima, ma anche del corpo. Cioè, il corpo è creato da Dio, né più né meno, è come l'anima, quindi, cioè, la Madonna in cielo sta col suo corpo santissimo, la Madonna non è passata neanche per la corruzione, per la morte, quindi la Madonna non è un angelo, come dire, con sembianze femminili, la Madonna è una donna, d'accordo? Così come Gesù Cristo è un uomo maschio, D'accordo. Dall'altra parte state attenti che tutte quante le sciocchezze che si dicono oggi in giro non ci stanno, e stanno maschi e femmine, d'accordo? Ecco. Nicola Vedda scrive: è peccato nascondere qualcosa ai genitori? Allora, è peccato nascondere qualcosa ai genitori se si tratta di qualcosa evidentemente di male che i genitori dovrebbero sapere che non si dovrebbe fare, d'accordo? Se uno nasconde ai genitori, non lo so, che ha fatto un gioco lecito con un suo amichetto, che ha giocato a nascondino, non fa niente, insomma, no? Ecco, ma se uno nasconde ai genitori che non ha fatto i compiti, è evidente che nascondere questa cosa non è una cosa buona, perché generalmente si nascondono le cose di cui uno dovrebbe si vergognerebbe un pochino o ha timore di essere scoperto. Ecco. Ai genitori le cose si possono nascondere, ma nostro Signore, insomma, no. Quali doveri ci sono per chi prende lo scapolare del Carmine? Allora, tutti quelli che sono tecnicamente dovuti, non li conosco, perché bisogna parlare di queste cose con i padri carmelitani, portando addosso un oggetto di devozione, evidentemente, il dovere che si ha è di vivere una vita cristiana dignitosa e decente, essendo poi quello un gesto di particolare riverenza mariana, sarebbe opportuno aggiungere qualche pratica di devozione mariana. C'è una cosa particolare legata allo scapolare, che è il privilegio sabatino. Io adesso non ricordo tutte quante le cose che bisogna fare per ricevere, credo che online si trovino queste cose. Oppure parlare appunto bene e approfondire bene il discorso con un padre carmelitano. Pascendi con Inici Gregi, schiere, un attimo che... Buonasera Don Leonardo, se uno ti dimentica di dire un peccato in confessione e poi si ricorda, ha perdonato quel peccato, lo deve dire nella seguente confessione? Dipende. Se è un peccato mortale, in base a quanto afferma il Concilio di Trento, bisogna dirlo. Se è un peccato veniale, non è necessario ripeterlo nella confessione seguente, perché la confessione copre i peccati dimenticati, ma a quanto si legge nel Concilio di Trento, qualora tornino alla memoria alcuni peccati gravi, c'è l'obbligo di confessarli in una confessione successiva. Fermo restando che se si sono dimenticati per dimenticanza, evidentemente non bisogna, come dire, agitarsi, cioè non è che se io mi sono scordato un peccato e l'ho realmente scordato, perché noi sappiamo se l'abbiamo realmente scordato o se facciamo finta di averlo scordato. Se ho fatto finta di averlo scordato non mi devo fare la comunione, d'accordo? Perché la confessione che ho fatto è invalida. Se me lo sono scordato veramente, la confessione è valida, l'assoluzione è reale, salvo l'obbligo, ecco, quando mi torna in mente, di dirlo alla confessione seguente. Adoro te, fonte di vita, Ave Maria Don Leonardo, nella situazione di immoralità di oggi, cosa consiglierebbe ai giovani che sentono di avere la vocazione al matrimonio? Com'è possibile costruire una famiglia santa oggi? Tutto è possibile, per chi lo vuole e usa i mezzi, quindi non, cioè, oggi è semplicemente un pochino più difficile, ma insomma io conosco tante persone, conoscevo e conosco, che hanno intrapreso un fidanzamento santo. È chiaro che per fare una famiglia santa bisogna innanzitutto cominciare dalle basi, bisogna avere un fidanzamento santo. Io ho scritto degli articoli sul mio blog, c'è proprio un articolo che si chiama Il fidanzamento santo. Qual è il fidanzamento santo? Il fidanzamento santo è un fidanzamento vissuto anzitutto da parte di entrambi nell'amicizia con il Signore, quindi coltivando la conoscenza sempre maggiore di Dio, la preghiera, magari anche la preghiera insieme, la vicinanza ai sacramenti, eccetera, facendo la scelta della purezza. Perché, come ho tante volte raccontato, cioè il fatto che ci sia stata la rivoluzione sessuale, possono fare tutte quante le rivoluzioni che vogliono, ma la legge di Dio non si muove di un millimetro, d'accordo? Quindi quello che era male fino a prima del 68 è male anche dopo, D'accordo? Per cui durante il tempo del fidanzamento, se uno non vuole scendere troppo in particolare, si può o non si può, c'è un confine, d'accordo? Tutti quanti i gesti che servono a manifestare affetto e amore, come dire, non erotico, sono tutti quanti possibili. Appena si comincia a spostare l'asse della bilancia verso l'eros e la libidine percepita, diciamo così, anche a livello fisico, non ci vuole la scienza infusa per capirlo, ci si deve fermare, d'accordo? Perché si sta andando oltre i limiti della purezza prematrimoniale. Dopo c'è un'altra cosa però ancora più importante, cioè non è non ancora più importante, una terza cosa. I ragazzi devono imparare a starsi vicino come persone, cioè devono imparare a rispettarsi sempre. Non si manca di rispetto alla persona che sta vicino, mai. Non si prende a parolacce, d'accordo? Si impara ad ascoltare, si impara a dialogare, si deve avere stima di chi ti sta vicino, considerazione, e si deve parlare dei propri progetti di vita, della propria visione di famiglia, come regolarsi in futuro con tante questioni, da un punto di vista lavorativo, che tipo di indirizzo dare ai figli, quanti averne, educarli. Quindi, cioè, non sono cose queste qua che si improvvisano, sono cose che si maturano, d'accordo? E durante il tempo del fidanzamento, se uno sente la vocazione al matrimonio, quel tempo è finalizzato semplicemente a comprendere se la persona che ho dinanzi è quella che Dio mi ha messo davanti per farci insieme una famiglia santa e per trascorrerci una vita insieme. Questo oggi va tanto di moda il termine sfida, ma questa è una grande sfida, ed è una sfida da accogliere e da vivere, perché tutto è possibile per chi lo vuole, d'accordo? Ecco. Evidentemente questo discorso potrebbe essere approfondito all'inverosimile, no? Quindi è una risposta a una domanda, ma su questi temi ci ho parlato talmente tanto, insomma, che sia per iscritto nel blog che per catechesi su catechesi, insomma, si può approfondire variamente. Buonasera carissimo Leonardo, la comunità di San Pio X è in comunione con la Chiesa Cattolica e bella domanda, una comunione certamente non piena e sicuramente non piena da un punto di vista canonico, d'accordo? Perché la fraternità di San Pio X non ha una ancora conformazione giuridico-canonica nella Chiesa. Diciamo che da un punto di vista sostanziale, adesso è stata la remissione delle scomuniche, loro si definiscono pienamente cattolici in perfetta comunione con la Chiesa, Papa compreso. Il problema è che hanno delle riserve, diciamo così, di natura dottrinale su alcuni aspetti del Concilio Vaticano II che loro non riconoscono. Quindi questo certamente è, come dire, causa dei problemi, quindi non si può parlare di perfetta comunione, d'accordo? Perché i concili nella Chiesa sono 21 e l'integrità di un concilio in quanto tale non può essere messa in discussione, cioè in quanto poi gli intenti, le operazioni che sono state fatte, le strumentalizzazioni a priori o a posteriori, questi sono un altro discorso. E se su questo ci sono delle pecche, vanno combattute, vanno evidenziate e vanno ricalibrate, d'accordo? E nessuno, insomma, credo che nessuno si scandalizzi quando, insomma, si faccia presente, insomma, che ci sono stati problemi, insomma, col famoso spirito del concilio e tutte le altre cose che sono uscite fuori. Però bisogna sempre distinguere come dire, i livelli e gli ambiti, d'accordo? Quindi queste cose sono ancora in attesa di composizione. Ecco, Franciscus 1999 dice: buonasera, cosa succede a una persona che non fa la volontà di Dio? Vivrà infelice? Grazie. Bravo. 10 e lode. Una persona che non fa la volontà di Dio sicuramente vivrà infelice. Questa è proprio la risposta migliore. vivrà sicuramente infelice. Potrà averci tutti i soldi che vuole, tutto il sesso che vuole, tutte le donne che vuole, tutto il potere che vuole, tutte le carriere che vuole, le professioni che vuole, ma vivrà infelice. Bravo Franciscus 1999, non ho altro da aggiungere a quello che hai scritto. Bene, Gisella Scorzafavi, se una persona pur provandoci e pregandoci sopra non riesce a credere nel Dio di Gesù Cristo, come si può fare? E questa è una domanda un pochino, allora rispondere a questa domanda in linea teorica è molto difficile, quindi se si tratta di lei, figlia cara, le consiglio di farsi un po' di sante chiacchiere con il suo parroco, con un sacerdote di sua fiducia, quindi bisogna un attimo vedere bene cosa c'è nella sua vita, nella sua storia, nella sua nel suo modo di porsi, nella sua umanità, nella sua psiche, ferite, cose, cioè comprendere da che cosa possano dipendere alcune remore, no? Perché possono, cioè, un discorso di questo genere è potenzialmente, come dire, infinito. E se si tratta di una persona estranea, cioè, allora la conversione è un dono di, cioè, Gesù nel Vangelo dice: nessuno può, San Paolo scrive nelle sue lettere, non Gesù, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo, d'accordo? Quindi quando c'è una cosa di questo genere bisogna vedere se ci sono degli ostacoli dipendenti da certe strutture mentali, esistenziali che la persona si porta dietro, oppure se non c'è ancora la grazia di credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio, d'accordo? Perché credere nel Dio di Gesù Cristo e credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio è esattamente la stessa cosa. E quando questo non c'è, bisogna pregare. Cioè, per la conversione di chi non conosce ancora l'amore di Dio, bisogna anzitutto pregare, no? Andrea Battimiero 99, padre, le chiedo un parere prima come giurista e poi come sacerdote. Realmente il DDL Zan potrebbe comportare problemi a noi cristiani nell'annuncio del messaggio evangelico in toto? Ma guarda, io sto seguendo il dibattito su questa cosa in maniera molto molto marginale, perché dicono persone molto molto autorevoli, anche la CEI si è pronunciata con una certa preoccupazione, che alcuni passaggi porrebbero, come dire, delle possibili limitazioni alla libertà di espressione. Ho letto qualche articolo da parte di fonti, come dire, vicine e favorevoli, che relativizzano, minimizzano, cioè non è affatto vero, non succede niente a destra e a sinistra. Io dico sempre che se si fanno, non ho ancora letto questo testo, insomma, perché chi deve operare su queste cose sono quelli che stanno in Parlamento per ora. Certamente io faccio mie tutte quante le motivazioni di preoccupazione e di protesta, ho anche retweetato sul mio profilo Twitter, insomma, qualcosa, qualche messaggio da parte di chi sta un pochino preoccupato, e io condivido, insomma, le preoccupazioni. E io, diciamo, dal punto di vista generale non mi sembra che in Italia ci siano fenomenologie tali di questo genere, anzi c'è una grande apertura, insomma, nei confronti anche di un certo mondo, nella, come dire, persuasione che per l'esistenza del libero arbitrio è possibile, per del libero arbitrio, quindi è possibile alle persone fare le scelte che maggiormente ritengono opportune, certamente prendendosi le loro responsabilità e non per questo dovendo comunque essere oggetto di atti di discriminatorio, di violenza o cose di questo genere. Io non, cioè, già dicono i giuristi che tutto questo è già ampiamente contenuto, e io sono d'accordo, nei principi generali dell'ordinamento. Se uno dovesse fare delle formulazioni legislative ambigue, che cosa succede? Che la formulazione legislativa ambigua poi dipende dal magistrato che la applica, e se trovi un magistrato che vuole andare a fare, come dire, un'applicazione, come dire, severa nei confronti di una denuncia verso qualche persona, se gli dà lo strumento può farlo e può metterla in un guaio. Quindi Più di questo io allo stato attuale non posso dire, però certamente noi figli di Dio, vedo la mobilitazione che c'è insomma in giro, le sentinelle in piedi e tutte quante queste cose qui, certamente fanno e danno motivo insomma di pensare non poco. Noi preghiamo e speriamo che queste cose non vadano in porto, perché la verità non può essere, deve essere detta bene, a tempo e luogo opportuno, deve essere detta la verità sostanziale, quindi noi parliamo di valori, quindi diciamo questo è bene e questo è male, quindi condanniamo il peccato ma non il peccatore. Ecco, dobbiamo chiudere perché la diretta sta per terminare. Alla prossima, Ave Maria. Prenota e vivi la magia di un perfetto Rendez-vous Air France. Fino al 18 novembre prenota il tuo volo per New York a partire da 324 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con la promozione Rendez-vous Air France raddoppi le tue miglia Flying Blue e raggiungi più rapidamente il tuo prossimo premio. Condizioni e informazioni su airfrance.it.